componimento 125esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Se il pensier che mi strugge, com'è pungente e saldo, così vestisse d'un color conforme, forse tal m'arde e fugge, ch'avria parte del caldo, e desteriasi amor là dov'or dorme. Men solitarie l'orme foran de miei pie lassi, per campagne e per colli, men gli occhi ad ognor molli, ardendo lei che come un ghiaccio stassi. E non lascia in me dramma che non sia foco e fiamma. Però ch'amor mi sforza e di saver mi spoglia, parlo in rime aspre e di dolcezza ignude. Ma non sempre a la scorza ramo né in fior né in foglia mostra di for sua natural vertude. Miri ciò che il cor chiude, amor e que begli occhi ove si siede a l'ombra. Se il dolor che si sgombra aven che in pianto o in lamentar trabocchi, l'una me noce e l'altro altrui ch'io non lo scaltro. Dolci rime leggiadre che nel primiero assalto d'amor usai quand'io non ebbi altr'arme, chi verrà mai che squadre questo mio cor di smalto, ch'almen com'io solea possa sfogarme? Ch'aver dentro a lui parme un che Madonna sempre depinge e de lei parla. A voler poi ritrarla per me non basto e par ch'io me ne stempre. Lasso, così m'è scorso lo mio dolce soccorso. Come fanciul che pena volge la lingua e snoda, che dir non sa, ma l più tacer gli è noia, così il desir mi mena a dire e vo che moda la dolce mia nemica anzi ch'io moia. Se forse ogni sua gioia nel suo bel viso è solo e di tutt'altro è schiva, odi il tu verde riva e presta a miei sospir sì largo volo che sempre si ridica come tu m'eri amica. Ben sai che sì bel piede non tocco terra un quanco come quel dì che già segnata fosti. Onde il cor lasso riede col tormentoso fianco a partir teco i lor pensier nascosti. Così avestù riposti de be vestigi sparsi ancor tra fiori e l'erba che la mia vita acerba lagrimando trovasse ove acquetarsi. Ma come pò s'appaga l'alma dubbiosa e vaga. Ovunque gli occhi volgo, trovo un dolce sereno, pensando, qui percosse il vago lume. Qualunque erba o fior colgo, credo che nel terreno aggia radice, ov'ella ebbe in costume gir fra le piagge il fiume, e talor farsi un seggio fresco, fiorito e verde. Così nulla sen perde, e più certezza averne fora il peggio. Spirto beato, quale se quando altrui fai tale? O poverella mia, come se rozza, credo che te l conoschi, rimanti in questi boschi. Fine del componimento.